Direttamente da casa sembra strano a dirsi, ma è così. Questo è lo spazio dedicato alla musica. Da oggi per le prossime puntate avremo sempre con noi ospiti artisti, voci dal mondo dello spettacolo e della musica che ci accompagneranno in questo delirante viaggio dedicato al coronavirus. Questo spazio, insomma, l'abbiamo intitolato Me Sint, non a caso, insomma, come il pezzone del Nove Posse, bellissimo pezzo, sempre attuale, tra l'altro, non a caso, anche perché il nostro ospite di quest'oggi è cresciuto ed è vissuto praticamente con il 99 Posse, Valerio Iovine. Valerio, ciao, grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti quanti voi, a chi ci sta ascoltando. Come ti senti? Prima di tutto, come stai? Come stai vivendo questo momento pandemico? Ma dopo un inizio comunque abbastanza strano, particolare, difficile, poi comunque ho pensato comunque di mettermi a fare quello che mi riesce meglio, il mio mestiere, pur stando in casa. Quindi a distanza con i miei collaboratori mi sono messo a produrre musica. Quindi la sto vivendo, la sto sopportando. Naturalmente, come tutti, non vedo l'ora di uscire da queste quattro mura. Sì, è incredibile, insomma, veramente è surreale. Infatti, diciamo, è bello avere almeno in questa occasione qui, avere una parvenza di tornare a parlare ad una comunità. Perché effettivamente, diciamo, almeno io così me l'immagino, adesso questa diretta qui con te, me l'immagino come se fossimo tutti quanti riuniti, 40, 50, 100 persone, uno con la nato, pieni di assembramenti, diciamo, uno sull'altro, per chi non ci sta ascoltando che non è di Napoli. Me l'immagino in questo modo, che siamo tutti quanti insieme, almeno, diciamo, per superare questo momento. Tu Immagina hai che da pure. poco? Sì, dici, dici. No, no, dimmi, dimmi. No, immagina comunque anche per il mio lavoro, che poi è la mia passione, quindi abituato a stare sempre a contatto con le persone, a salire sul palco, a guardare la gente giù che sta assembrata comunque, che sta azzaccato l'uno con l'altro, e quindi vedo molto lontano anche il mio futuro musicale, però dai, andiamo Sì, ma avanti. avremo modo poi di parlare ovviamente, insomma, anche di questo, Certo, uno dei temi certo. principali, insomma, quello del problema dei lavoratori del mondo dello spettacolo, che è veramente un Certo. problema cruciale. Allora, tu da pochi giorni sei uscito con un nuovo singolo che si Sì. chiama L'Effetto, e che è assurdo perché praticamente, nonostante tu l'abbia scritto in realtà in tempi non sospetti, ma racconta esattamente quello che stiamo vivendo ognuno di noi ormai chiusi da circa 40 giorni in casa. Cioè, è una Guarda, coincidenza incredibile. è una coincidenza incredibile, c'è anche il motivo della scelta di questo brano, comunque ha anche poi una sua storia. Io ero, come tantissimi musicisti, come tantissimi artisti, ero proprio nel pieno della creazione del nuovo album. Probabilmente sarei uscito in questo periodo, tra aprile e maggio, comunque in contemporanea più o meno con le date che più amo nella mia carriera, cioè il 25 aprile e il 1 maggio. E quindi comunque avevo tutta una serie di pezzi, naturalmente a metà, quelli che stavano un po' più avanti, quelli là che dovevo ricantare. E la sera che ho capito che comunque nel mio caso, nella mia persona, ma soprattutto per quanto riguarda il mio mestiere, non contiamo praticamente un cazzo, siamo gli ultimi comunque siamo i fanalini di coda comunque in questo momento, perché sono importanti le imprese, sono importanti altri, ma i musicisti e tutto il settore che poi ci gira intorno, siamo veramente gli ultimi. Ancora adesso non è stato stabilito niente per noi, comunque, nel campo artistico. E quindi ero estremamente arrabbiato, nervoso. Non nascondo che comunque i miei figli stavano a letto, quindi potevo sfogarmi comunque da solo. E quindi cominciai una cosa che poi non mi succede mai nella vita, e nella vita mi sono successe anche cose peggiori. Cominciai a piangere in modo veramente continuativo, non so come dire. E dissi no, a già chiamare papà, perché poi nel frattempo comunque purtroppo con mia mamma non posso parlare più, quindi comunque chiamai mio padre. Mio padre comunque è anche anzianotto e non riuscivo a parlare, talmente comunque la mia voce era rotta dalle lacrime. Mio padre cercò di tranquillizzarmi dicendo: Valerio, ma tu non ti preoccupare, perché comunque tu tieni un'arte, tu tieni la fortuna di tenere il tuo mestiere che comunque ti aiuta e ti aiuterà sempre. Quindi riuscii a tranquillizzarmi, però ancora comunque giravo per casa cercando di trovare comunque, per quanto potevo, una soluzione. E mi venne in mente proprio l'effetto e le parole di questa canzone. e dissi: ma guarda, guarda veramente il caso della vita, ci stanno delle frasi che sono delle frasi proprio azzeccatissime per questo momento, come a questi quattro muri me ne voglio sci, sto gienna sotto ma non Assolutamente. macca a pot. E allora là è cominciato questo viaggio, perché lo considero poi un viaggio mentale, perché naturalmente stanno gli USK ad int. Il giorno dopo comunque mandai il pezzo a Massimo D'Ambra, che è un bravissimo produttore, lavora anche con Gué Pequeno, e dissi: Massimo, ma mi vuoi aiutare? Perché questo pezzo ha bisogno di un mix, ha bisogno di una masterizzazione. E lui dopo 2 giorni mi rimanda questo pezzo in una veste bellissima. Nel frattempo, quindi decidiamo, allora lo facciamo uscire comunque su Spotify, almeno sul canale ufficiale, dai, facciamolo uscire così. Naturalmente, per caricare un pezzo su Spotify, le caratteristiche essenziali sono quelle di mandare un file, e ce l'avevamo, e di mandare una copertina. Quindi scrivo su Facebook uno dei miei tanti post e dico: ma c'è qualcuno per caso interessato comunque a farmi la copertina di questo nuovo pezzo? Nel giro di mezz'ora mi arrivarono 50 idee di copertine, naturalmente tutte quante fatte semplicemente con il cuore, senza nessun secondo fine. E tra queste ne ho scelta una che poi ha rappresentato questo brano su Spotify. Quindi cominciai a pensare: ma forse ci vuole pure un video per questo pezzo. Nel frattempo avevo conosciuto, tramite una delle varie dirette che avevo fatto, comunque che ho fatto in questo periodo, avevo conosciuto questo ragazzo che faceva il regista per questa trasmissione che si chiama Pessoa Luna Park. E parlando comunque con lui, dissi: Raffaele, ma mi vuoi aiutare a fare un video? E mi disse: come lo facciamo? Dissi: bella domanda. Io avevo pensato all'inizio a farlo col telefonino, era proprio la prima possibilità che avevo davanti. Disse: guarda, Valerio, il telefonino proprio, diciamo, non è la prima scelta, ma tu. E pensai che avevo conservata nel mio stanzino una vecchia Nikon, ma ve l'assicuro, poi un giorno vi manderò una fotografia, anche perché questa Nikon sta tra le cose più care che ho. Una Nikon proprio, quelle là digitali, proprio di prima generazione. Dissi: Sì, la guarda, conosco, me la ricordo. guarda Raffaele, io ho questa Nikon, questo modello così, dissi, per caso può servire, potrebbe. E lui disse: va, ce la facciamo bastare. Da quel momento abbiamo cominciato a lavorare a questo video, quindi ho cominciato a fare inquadrature. Naturalmente lo sottolineo, mi piace moltissimo fare fotografie, mi piace anche fare video, diciamo, ma soprattutto quando sono in vacanza, quindi immagine di mare, immagine comunque soprattutto di natura. Ma sono assolutamente impreparato su tutto questo, quindi massimo rispetto per chi fa questo di lavoro. Nel frattempo, comunque, comincio a fare qualche inquadratura, qualcosa, e vedo che usciva fuori qualche risultato simpatico. Quindi, sempre a distanza con Raffaele, cominciamo a scambiarci dei file attraverso Google Drive. Poi gli faccio pure la domanda: dico, ma Raffaele, siccome questo Pessoa Luna Park sta ad Angri, dico, ma tu stai in provincia di Salerno? Dice: Valerio, guarda che io studio a Torino. Quindi questo video è stato girato tra Napoli e Torino, sempre a distanza con questo Raffaele che non conosco di persona, pure se siamo diventati molto amici in questo momento, ci sentiamo tutti i giorni. Quindi da là parte questo video, in molti per fortuna l'hanno visto già, però per chi non l'ha visto è un video comunque particolare, perché poi gli attori principali di questo video sono stati i miei figli, che comunque mi hanno aiutato, Bellissimi, stupendi. grazie, hanno fatto comunque anche loro il playback. La prima figlia Emma è stata bravissima, l'ho presa comunque al risveglio, ho detto: Emma, guarda, dobbiamo mettere la fotocamera, dobbiamo mettere a fuoco, mettiti un attimo là. Poi ho messo il pezzo e lei ha cominciato a fare questo playback in maniera proprio naturale. Per il secondo è stato un po' più complicato, lì ho dovuto fare salti mortali, ma alla fine ci siamo riusciti. Dopodiché ho pensato a un'immagine che all'inizio avevo fatto la barba come cosa, ed era una scena abbastanza casalinga e normale. Poi ho pensato una cosa: nella mia carriera, anche quando ho fatto televisione, una delle caratteristiche principali è che io il cappello non lo tolgo mai. A volte, come pure in questo momento, mentre facciamo l'intervista, io ho il cappello in testa, perché è una cosa. Ma infatti io questo ti volevo chiedere, tu ti sei rasato i capelli, ti sei fatto il pelo in questo video, è Ma un sai, simbolo di trasformazione. è un simbolo di trasformazione, ma è anche per me mettermi a nudo, passare nella seconda fase, perché comunque questa pandemia, questo momento della vita, comunque in un modo o in un altro ci ha cambiato un po' tutti. E quindi ho detto: aspetta, adesso ci vuole una scena d'effetto. Sentì Raffaele, dissi: Raffaele, guarda, ho pensato a una cosa. Io mi voglio mettere davanti allo specchio e mi voglio rasare tutti i capelli. E prima di far vedere poi questo passaggio, voglio fare questa scena dove io c'ho il cappello in testa e a un certo punto me lo tolgo. E devo dire la verità che comunque questa scena poi ha avuto un certo effetto sul mio pubblico, che poi preferisco dire i miei amici, non mi piace chiamarli fan, ma io cerco di conoscere tutti quanti quelli che ascoltano la mia musica per quello che mi è possibile. E insomma, diciamo, i risultati per fortuna mi hanno dato ragione, oltre anche le mie aspettative, perché adesso io poi vado a vedere ogni tanto, come fanno tutti i musicisti, essere comunque a 25.000 visualizzazioni su YouTube dopo 4 giorni, aver fatto dei numeri su Spotify che non avevo mai fatto prima. Commenti, certo. Like, sono delle cose che, ecco, mi tengono impegnato, mi fanno felice, e soprattutto credo che veramente, dopo che ho fatto tante cose belle nella mia carriera, dopo che ho fatto televisione, dopo che ho lavorato per 6 anni con i 99 Posse, quasi, non voglio dire che mi era passato genio, però quasi era diventato un po' normale, e il mio mestiere non può diventare una cosa normale. Questa assolutamente canzone, insomma, questa l'arte non può essere considerata assolutamente. E vale, noi tra poco la ascoltiamo. Volevo nel frattempo ricordare a Raffaele che tra qualche minuto, insomma, l'effetto, il tuo nuovo singolo lo ascoltiamo. Assolutamente. Così, insomma, lui si comincia un attimo a preparare. E volevo solo soffermare un attimo su di te, mi aggancio a quello che stavi dicendo, perché tu proprio quando è uscito il pezzo pochi giorni fa, tu hai dichiarato: è in questa fase che noi dobbiamo riscoprirci comunità, dobbiamo trovare nel mutualismo, nell'aiuto reciproco, una nuova genesi. Davanti a queste paure dobbiamo sentirci più forti per andare avanti. Quindi è quello che ci stai dicendo adesso. Quindi saranno gli effetti secondo te, insomma, quelli reali sulla comunità dopo il coronavirus, saranno questi? Guarda, l'altro giorno in una riunione comunque sul web insieme a 99 Posse Africa Unite, io dicevo, specificavo questa cosa: ci dobbiamo riscoprire come comunità. È un po' l'effetto, è un esempio, parlando del regista che è diventato mio amico a distanza, il ragazzo che ha fatto la copertina, cioè però voglio sottolineare che sono convinto anche che chi è dotato di cuore, quindi chi vuole riscoprirsi e far parte della comunità, per chi vuole esserci sicuramente sarà un momento di riscoperta. Però ecco, c'è sempre chi poi pensa e continua a pensare solo agli affari propri, senza poi pensare che in tanti si può fare molto di più che da soli. Certo, allora dai, autolanciati il pezzo. Per tutti quelli che stanno troppo belli in reggae style, ma soprattutto per tutti quelli che comunque volessero nascere questi 4 mura, a voi l'effetto. Radio Quarantella Napoli, incursioni musicali. Radio Quarantella Napoli. Togliena sotto mano ma capote, ma che non sai a capa mi sta sotto in corpo. Ho ancora spatto ma non sento un beat. Cercavo affetto e mo aspetto l'effetto. Cercavo affetto e mo aspetto l'effetto. Cercavo affetto e mo aspetto l'effetto. Che stanza ancora non mi farmi. Troppi pensieri solo il lunedì. Basta, ma la vuoi dormi. A questi 4 mura me ne voglio uscire. A guerra angato pure mi salì. Troppi messaggi me non ci capì. Ma questi social non la vuoi dormi. Sai, sembra troppo belli in dei fotografi. Sto llena sotto mano ma capote. Ma che non sai a capa mi sta sotto in coppa. Sbatto ma non sento un beat. Cercavo affetto e mi aspetto l'effetto. Sto llena sotto ma non mi accapotto. Ma che non sai a capa mi sta sotto il corpo. Ho ancora sbatto ma non sento un beat. sempre alla moda tutto vuosti. E mani in cielo sto cercando a di, ma rindasti con sera stiamo su lei. Come si strada vuota la periferia, ma tu da gira fai finta e non senti. E poi scombare fino a martedì. Sto di una settimana un macchiappotto, a questa terra non me ne voglio. Sto di una settimana un macchiappotto, ma che ne sai a capa mi sta sotto in coppa. Ho cuore sbatto ma non sento un beep. Cercava affetto e mo aspetto l'effetto. Radio Quarantella Napoli, anticorpi dai bassi. Sto gliena sotto mano, ma capote. Yeah. Vi ricordo, sì, eccoci di nuovo. Vi ricordo che siamo su Radio Quarantella, anticorpi dei bassi, voci, risonanze, dissonanze pandemiche in diretta su radiovirus.org. Questo è uno spazio dedicato alla musica. Msint, oggi con noi ospite c'è Valerio Iovine. Valerio, sai che nelle giornate precedenti, durante le altre trasmissioni di Radio Quarantella, quando c'era il sole, in realtà, magari chissà se qualcuno lo farà anche oggi, anche se piove, c'era che anche chi aveva messo, che è una cosa bellissima, che hanno messo praticamente la cassa fuori i balconi per far ascoltare, no, maggiormente quello che stavamo dicendo durante le trasmissioni. Bello. Ad un pubblico maggiore possibile. Magari qualcuno ci sta ascoltando adesso e vuole farlo, magari al balcone coperto, insomma, lo invitiamo a fare altrettanto. Secondo me oggi, anche perché oggi è un po' più difficile, secondo me, perché dici tenga una cassa a casa, almeno facciamo sentire la musica e sta fuori bagno. Vabbè, magari hanno un balcone enorme, io non so, sì, vabbè, speriamo per loro. Io purtroppo non ce l'ho, c'ho un balconcino troppo piccolo per fare questo. Va bene, ma sicuramente qualcun altro lo farà. Detto questo, no, quello che noi vogliamo, insomma, su cui vogliamo soffermarci, secondo me, è quello, ovviamente, il momento che stiamo vivendo in qui da ormai più di 40 giorni, è il fatto che, secondo me, non c'è una frase napoletana che meglio sintetizza quello che stiamo attraversando, che è: ci hanno ucciso la salute. Cioè, secondo me questa frase è proprio la frase che sintetizza tutto. Cioè, solitamente noi siamo abituati alla salute perché ci hanno scocciato, ci hanno detto grazie, eccetera, eccetera. Ci hanno ucciso la salute, in questo caso è proprio, diciamo, la frase emblematica, perché in realtà, diciamo, se noi siamo in questa situazione, ci sono delle responsabilità, non è solamente la colpa del virus mondiale, ma ci sono ovviamente, insomma, delle responsabilità specifiche, cioè il fatto che comunque ci siano solamente su 6 milioni di abitanti in Campania, ci siano solamente 334 posti letto, e su questi 334 posti letto in Campania ce ne siano solamente 272 per la rianimazione, oggi no, e su cui ancora oggi, diciamo, nei scorsi giorni proprio, si continua a fare propaganda, cioè, ci sono delle responsabilità chiare ed evidenti. Quindi la salute nel corso degli anni ce l'hanno completamente ammazzata, ed oggi noi siamo tutti quanti chiusi in casa, costretti per interessare in casa con queste misure restrittive allucinanti. Dobbiamo continuare chiaramente a restare in casa per delle responsabilità specifiche. Tu sei d'accordo su questo? Ce l'hanno uccisa questa salute? Ma sono pienamente d'accordo, soprattutto io nell'ultimo anno, purtroppo causa della malattia di mia madre, un po' gli ospedali, che sono il posto comunque che più odio al mondo dal mio punto di vista, ho vissuto la situazione sanitaria napoletana, ho vissuto anche queste cliniche comunque dove ho portato mia madre, dove doveva fare riabilitazione e l'hanno tenuta, mia mamma doveva stare lì per 2 mesi e dopo 20 giorni io e mio fratello con la mia macchina ce la siamo andati a prendere di corsa, perché mia mamma l'avevano buttata buttata in un letto così, e poi dice no, ma quella mamma non si impegna. Però tornando poi più nello specifico alla problematica, tutto questo purtroppo è colpa delle istituzioni che comunque hanno tagliato. Per fortuna comunque abbiamo passato anni dove non ci sono state grosse problematiche, oppure ci hanno toccato proprio da lontano. E se dobbiamo dire un aspetto positivo, tra virgolette, sempre voglio dire, di questa pandemia, è stato quello di mettere comunque alla luce, anche se non è stato messo alla luce ancora abbastanza, proprio il problema della sanità italiana, di questi tagli che sono stati fatti da 20 anni, anche se comunque qualcuno, senza fare nomi, si sta facendo paladino della giustizia quando è stato, parlo del nostro governatore comunque della Campania, quando comunque è stato il primo comunque nella nostra regione a creare comunque queste grosse problematiche, e adesso comunque bisogna rincorrere. Probabilmente saremmo dovuti stare in casa lo stesso, perché pure se ci fossero stati 500 posti in più per le terapie intensive, comunque il problema, noi siamo tantissimi comunque in questa città, in questa regione, quindi probabilmente saremmo stati lo stesso in casa. Però essere preparati a quello che può succedere, e chi comunque sta alla sanità lo sa meglio di noi che tutto questo può succedere da un momento all'altro, perché è successo nella storia, anche se di tanto in tanto, ma è successo. E quindi comunque assolutamente il primo taglio che non si doveva fare era quello della sanità, ma la sanità doveva tener conto di tante cose. Sì, vogliamo ascoltarci un altro pezzo, che dici? Magari nel frattempo così ci sentiamo napoletano, che dici? Guarda, secondo me è bello parlare, però poi sentire la musica è ancora più bella. No, anche perché poi facciamo, cioè, è importante anche questo, no? Ricordiamo che per fortuna c'è la musica che ci sta aiutando in questo periodo, perché se non c'era la musica veramente penso che eravamo tutti quanti sfiniti completamente. Assolutamente. Vai, allora, sono giamaicana, africana, sono nata a Milano, ma io sono napoletana. Strano, sono napoletana, giro per il mondo, riconosco i miei fratelli dall'accento napoletana, questa è la mia identità, sono nato proprio qua, Dindevig e questa città, nel frattempo mi sento cittadino del mondo. Addo stongo, stongo, stongo, sembaca. So giamaicana, africana, son nata a Milano. So napoletana. So giamaicana, africana, son nata a Milano. So napoletana. So pakistana, palestinese, chi so tale qual, an albanese. So di Torino, so di Caivan, so cittadina romana napoletana. Esce solo e creatura vanno a scuola, a fatica non si trova e non voglio più aspettare. Esce solo e creatura vanno a scuola, a fatica non si trova e non posso più aspettare. So giamaicana, africana, son nata a Milano, so napoletana. So giamaicana, africana, son nata a Milano, so napoletana. Una cosa che potesse fare l'italiano, così sembra parlo napoletano. La lingua più diffusa da Roma a Milano, il principale prodotto d'esportazione italiano. Noi non emigriamo. siamo napoletani. Sono più di 150 anni che colonizziamo, non emigriamo. Napoletani, da più di 150 anni ci ricollochiamo. Napoli, Napoli, Napoli, coi colori, gli ori e i dolori. Napoli, con l'orgoglio, raggia, prepotenza e Napoli. A tuo coglio, coglio, figlio sempre Napoli. Napoli, Napoli, Napoli, Napoli ti cade in trasformare tutto il mondo in una grande Napoli. Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli. So giamaicana, africana, sono nata a Milano. Il principale prodotto d'esportazione italiano. So giamaicana, africana, sono nata a Milano. Sono napoletana. So giamaicana, africana, sono nata a Milano. Il più diffuso prodotto d'esportazione italiano. So giamaicana, africana, sono nata a Milano. Ma sint, lo spazio lo ricordiamo dedicato alla musica, siamo su Radio Quarantella, Anticorpi dei Bassi, su radiovirus.org. Allora Vale, momento veramente insomma critico, difficile per tutti, credo che però per i lavoratori dello mondo dello spettacolo sia un momento paradossale, nel senso che la musica, cioè il coronavirus ha messo in quarantena la musica dal vivo, è stata la prima a fermarsi la musica dal vivo, a quanto pare sarà l'ultima a ricominciare, addirittura no, si è paventato l'ipotesi del marzo 2021 per i concerti, insomma poi bisognerà vedere perché chiaramente è tutto in divenire, quindi l'argomento è veramente molto delicato e paradossale perché per diversi motivi, uno tra i tanti, perché mi pare di aver capito che oltre ad esserci ovviamente tantissimi precari, molti non hanno neanche potuto accedere al reddito di 600 euro perché hanno questi contratti semestrali con le coop, ma di fatto non lavorano, quindi è come se avessero, diciamo, dei contratti, però qui non possono accedere al reddito, nonostante però poi loro non ricevono soldi. Quindi cioè, è ancora non si riesce a trovare una soluzione su questo, che poi è un indotto che ancora non si riesce a quantificare nello specifico rispetto magari ad altre categorie professionali, ovviamente perché il lavoratore dello spettacolo e della musica lavora in condizioni competenti, insomma, diverse, no? rispetto ad altri. Assolutamente. Quindi è un problemone, cioè è veramente un problemone. Vedi, questa è una cosa che è naturalmente quello che mi preoccupa di più, mi preoccupa forse quasi più del virus, pensare che fino a marzo 2021 io sarò senza lavoro, ma come me comunque una moltitudine di persone saranno senza lavoro, perché comunque c'è chi riuscirà ad avere sussidio, aiuti, eccetera eccetera, ma chi, ribadisco il discorso che facevo prima, chi come me, io in questo fino ad oggi in questo momento, diciamo, facendo i conti, dallo Stato non ho ricevuto nessun tipo di aiuto, e quindi immaginati fino a marzo 2021, io sono fortunato ad abitare sul lungomare di Pozzuoli, ma sono in fitto. E come pagherò il fitto comunque fino al 2021? Come pagherò le mie bollette fino al 2021? Come manderò avanti una famiglia e due figli fino al 2021? Quindi comunque assolutamente c'è bisogno di ammortizzatori sociali per questa categoria, che ripeto non è fatta solamente di cantanti, di chitarristi, ma è fatto di tutto il mondo che comunque ci dà la possibilità poi di andare a suonare. Chi monta il palco, chi fa il fonico, chi fa il fonico di palco, chi organizza i concerti, chi ha gli impianti e quindi ha fatto investimenti anche enormi. E ti ripeto, questa è la cosa che oltre a questo virus bastardo è la cosa che mi preoccupa di più. Io non ho paura di affrontare la vita, se ce ne danno la possibilità comunque di affrontarla, perché poi ripeto, io faccio canzoni e le sto facendo anche in casa, ma poi comunque quando fai le canzoni e non hai la possibilità di andarle a suonare, come organizzi il futuro? Sì, abbiamo credo che voglia intervenire in questo discorso così delicato anche Alessandro, che vorrebbe farti una domanda. Sì. Non so se ci sente e riesce a farla in questo modo. Come riesci a fare una domanda a una quarta persona? Lo chiedo perché non sono. Ma sono i potenti mezzi, diciamo, della dal web. La nostra regia. E ecco, mi stai dicendo, ce la scrive, dai. Vai, Alessandro, scrivici questa domanda e poi aspettiamo nel frattempo che ce la scrive e te la... e poi te la faccio. E allora sì, il ragionamento è che chiaramente bisognerebbe subito no, risolvere la questione del reddito, questa è, diciamo, la questione più primaria, nell'attesa insomma che anche gli altri ricevano poi il reddito così promesso, insomma, però veramente nello specifico della categoria del lavoratore dello spettacolo è un problema ancora maggiore, perché ancora non si capisce proprio come fare per dare a loro un reddito, un sostegno, cioè ma quindi è ancora come, difficile, come dicevi tu, quantificare è praticamente impossibile, però come mi piacerebbe comunque che fosse la vita in generale, se tu stabilisci un criterio di sussistenza alla stessa maniera per tutti quanti, cioè per dare la possibilità comunque di pagare quello che dobbiamo pagare e per mangiare ogni mese, allora sì, sarà complicato comunque non andare a suonare, ma almeno sappiamo che possiamo sopravvivere, perché comunque la differenza, la distanza sociale che esiste tra Valerio Iovine, faccio un esempio, ma tra Valerio Iovine e Laura Pausini, questi video che facevano soprattutto all'inizio, Fiorello, queste mi raccomando, dovete stare in casa, è facile dirlo quando c'hai il culo ben parato, comunque c'è un conto in banca comunque che non esaurirai mai, ma probabilmente nemmeno i tuoi figli. Bisogna pensare comunque il conto in banca, non dimentichiamoci che dovrebbe invece sostenere magari altri in questo momento. Assolutamente. Poi naturalmente noi nello specifico stiamo parlando della nostra categoria a tutto tondo, però ci sono innumerevoli altre categorie che comunque pure stanno in enorme difficoltà. Per chi ci sta ascoltando, non vorrei poi che si pensasse che noi ragioniamo pensando solamente a noi, perché questo poi potrebbe essere la cosa più sbagliata, non so come dire. No, anzi, assolutamente, credo si sia percepito, diciamo, noi stiamo parlando della domanda di... Sì, dimmi, vai. Sì. No, dico, noi parliamo della nostra categoria perché ne siamo a conoscenza, perché ci confrontiamo tra noi musicisti, però ecco, siamo tanti ad avere enormi problematiche. Certo, sicuramente. Il problema con questo mondo in questo momento è mondiale, insomma, quindi assolutamente. Allora, Alessandro ha formulato la domanda, te la leggo. Allora, proprio stamattina a Napoli una rappresentanza dei lavoratori dello spettacolo insieme agli attivisti delle spese solidali hanno manifestato davanti alla prefettura di Napoli per un reddito di quarantena. Chiaramente hanno manifestato, insomma, con tutte le misure precauzionali in vigore in questo momento. Allora, secondo te, chiede Alessandro, c'è la possibilità che gli artisti si uniscano per far sentire forte la loro voce al governo e per diventare voce anche di tutti questi lavoratori? Ma guarda, no, su questo ho risposto anche precedentemente in parte, probabilmente. Io di parte mia lo sto facendo, e naturalmente con gli artisti che conosco, con cui ho un legame, si sta creando questa cosa, con i fonici, con il mio fonico in particolare, Pari De Mazzone, quindi, che comunque sostiene anche lui la categoria, o con Bonbon, Francesco Bon, con tanti comunque che facciamo comunque che abbiamo un ruolo diverso nella musica, ma che siamo nella stessa barca da sempre e sempre, perché ecco il ragionamento che facevo proprio con Pari, del mio fonico, l'altro giorno era questo: quando noi prendiamo un furgone e facciamo 800 km per esempio per andare a suonare a Milano, noi siamo uguali, siamo nello stesso furgone, dall'autista al fonico, al cantante, al chitarrista, a chiunque, a quello che vende le magliette, per cui noi dobbiamo fare assolutamente gruppo. L'altro giorno ho partecipato a questa riunione di questo comitato comunque rock, che ha invitato gli Africa Unite, che sono una realtà da più di 30 anni, ha invitato i 99 Posse, ha invitato anche me, e probabilmente in parole diverse noi diciamo la stessa cosa, e quindi credo che comunque più si andrà avanti e noi più saremo uniti, però tra di noi credo già lo siamo. C'è qualcuno che a inizio comunque difendeva la categoria dei fonici, o chi difendeva l'altra categoria, noi dobbiamo fare zoccolo duro e essere una sola entità. ritrovare insomma, no, quella collettività e quella comunità. Ma in realtà ci sono anche altri problemi, vale, sempre legati ovviamente a questo mondo della musica, come ad esempio i biglietti, nel senso che i biglietti sono validi solitamente per 12 mesi, invece rischiamo che chi ha comprato i biglietti per la stagione da maggio a settembre non rientra, nel senso che se tutto viene spostato al 2021 rischiamo che bisogna trovare anche una soluzione per questo, per chi magari ha acquistato i biglietti quest'estate e non li vedrà nemmeno insomma l'anno prossimo, si deve capire questo è un altro nodo. E un'altra cosa che volevo chiedere, i concerti invece c'è anche chi ha ipotizzato i concerti distanziati, ma mi pare proprio fantascienza, cioè la Formula 1 può stare a porte chiuse, ma fare concerti distanziati mi pare una cosa proprio... Vedi, il calcio può fare, anche se comunque io sono un grandissimo amante del calcio, dello sport in generale. Sì, infatti ma... questo ho detto Formula 1 e non il calcio. Sì, no. Però ecco, lo so perché ci siamo confrontati anche io e te tante volte sul calcio. Però ecco, per me una partita di calcio non è fatta da 11 giocatori, 2 allenatori e le panchine e i vari massaggiatori eccetera eccetera, ma è fatto del pubblico. Io quando guardo una partita a porte chiuse provo un'estrema tristezza, eppure ti ripeto, tu lo sai, sono un amante estremo, quindi se si comincia di nuovo a giocare ma a porte chiuse non sarà lo sport che io amo. Bisogna trovare delle soluzioni, bisogna trovare delle soluzioni importanti, e lo stesso è per la musica. Che cosa mi rappresenta fare concerti ma distanziati? Oppure la cosa che ho sempre odiato, che poi potrebbe dare in realtà la distanza tra uno e un altro, mettere delle sedioline. Io quando ho visto ai miei concerti che qualche organizzazione metteva le sedie anche a 50 metri con comunque dal mio palco, ha già sempre fatto pazzo, lo dico in napoletano, perché per me è comunque un concerto di musica live, soprattutto della mia musica, soprattutto di musica comunque roots rock reggae, non so come dire, per citare anche Bob Marley, la sediolina per me non ci azzecca niente, e quindi comunque non me lo voglio nemmeno immaginare il concerto a distanza. A quel punto comunque, se ci deve essere il concerto distanziato, allora si penserà a fare dei concerti sulle proprie pagine, casomai, dove ognuno darà un contributo e entrerà comunque nella diretta. Però ti ho detto, queste soluzioni alternative in questo momento non me le voglio nemmeno immaginare. Mi voglio immaginare che per noi comunque, fino a quando non ricominciamo il nostro mestiere, ci sia la possibilità comunque di andare avanti e portare avanti le nostre famiglie, e mi voglio immaginare che poi un giorno potremo festeggiare facendo concerti, facendo arte in generale, tutti quanti insieme, riabbracciandoci, e questa volta veramente nella maniera più sincera possibile. Speriamo, va bene. Vogliamo sentirci un altro pezzo? Mi sono sciodata e tre, vai, autolanciati ecco. Di nuovo. Ma sono sciodata e tre, è pure senza te, metto a fare il caffè e in un istante inizia il giorno. Trovo un po' di magia dentro la confusione del mondo. Mi piace stare in mezza via, mi ci ritrovo sempre un po' e cerco ovunque sia, come chiunque cerca una via. Penso di andare via, ma preferisco stare qua. Ci spero ancora un po', so che combatterò alla ricerca di un mondo migliore. Ma sono scesa dei tre, da tempo senza te, eppure provo qualche cosa che mi fa pensare bene, che mi fa stare in sintonia col mondo. Almeno io ci sto provando, da tempo sincero in fondo, da quando giro in ansia nel suo paese, facendo poche musica, provo ad arrivare a fine mese. Da quando io ho capito che non ci sta niente che mi fa stare meglio senza bavaglio, scrivo sopra un altro foglio di questo mondo, di quello che noi stiamo vivendo. Amo il mio mondo e voglio stare tranquillo a guardare le stelle, fumando una canna sul lato del mondo, e poi pensare a te. Ma sono scesa da tre, ancora senza te, ma sa c'è buono che non te voglio, una canzone per cantare. Trovo un po' di magia dentro la confusione visione del mondo. Mi piace stare in mezza via, mi ci ritrovo sempre un po' e cerco ovunque sia, come chiunque cerca una via. Penso di andare via, ma preferisco stare qua. Ci spero ancora un po', so che combatterò io alla ricerca di un mondo migliore. Ma sono scelta dei tre, da tempo senza te, eppure provo qualche cosa che mi fa pensare bene, che mi fa stare in sintonia col mondo. Almeno io ci sto provando, da tempo, sincero in fondo, da quando giro innanzi a sto paese, facendo poche musica, provo a arrivare a fine mese. Da quando io ho capito che non ci sta niente che mi fa stare meglio senza bavaglio, scrivo sopra un altro foglio di questo mondo, di quello che noi stiamo vivendo. Amo il mio mondo, e voglio restare tranquillo a guardare le stelle fumando una canna sull'alto del mondo e poi pensare a te. Ma sono scelta dei tre, ancora senza te, metto a fare il caffè, in un istante inizia il giorno, trovo un po' di magia dentro la confusione del mondo. Mi piace stare in mezza via, mi ci ritrovo sempre un po' e cerco ovunque sia, come chiunque cerca una via. Penso di andare via, ma preferisco stare qua. Ci spero ancora un po', so che combatterò io alla ricerca di un mondo migliore. Eccoci di nuovo tornati qui. Allora, su lo spazio dedicato alla musica, mi sento, questo è l'ultimo blocco, Vale, quindi ci stiamo per salutare, spero okay. Diciamo quanto prima di rivederti, l'ultimo blocco è dedicato ovviamente nuovamente a te, ai tuoi progetti futuri, per quello insomma che ovviamente riuscirai poi a programmare in questo periodo di pandemia mondiale. Non è facilissimo risponderti, rispondere a questa domanda. Sicuramente l'effetto, l'ultimo brano che è uscito mi ha dato voglia, comunque, come ho detto già prima, di rimettermi in discussione, soprattutto di far sentire quanto più possibile la mia musica. Per cui ero in procinto di far uscire un album, adesso comunque sono in casa, quindi io già sto pensando comunque alla prossima canzone che uscirà. Naturalmente tra qualche mese, perché voglio dare giusto spazio comunque all'effetto, e quindi sicuramente se non avremo modo comunque di poterle cantare live, farò uscire altre canzoni, quindi un'altra canzone e poi ancora un'altra, sperando massimo di farne uscire altre due e poi far uscire l'album e poterlo andare a cantare live. In realtà avevo tantissime date comunque già in programma per tutta l'estate, avevamo date, perché lo sai che la mia carriera musicale è abbastanza fortunata, e avevo già date comunque in Sicilia, avevo date in Calabria, in Puglia, in Campania come sempre, che sono tantissimo, però naturalmente queste sono date, spero, rimandate a data da destinarsi. Nel frattempo per me è giusto continuare a impegnarmi, per fortuna che comunque ci abbiamo, per fortuna che questa brutta bestia del coronavirus è venuta comunque e abbiamo la tecnologia dalla nostra parte, almeno questo, perché così possiamo in un modo o in un altro andare avanti. Questo è. Quindi io voglio andare avanti e in un modo o in un altro, perché alla fine sono convinto che la mente è la cosa più importante delle persone e nessuno può fermare a cervello. Effettivamente sì, è così. Vale, grazie davvero, grazie per essere stato con noi. Grazie a te. Noi non vediamo l'ora di vederti dal vivo, non vediamo l'ora di uscire per vederti dal vivo e seguire il tuo concerto. Speriamo insomma di farlo quanto prima. Chiaramente usciremo da qui anche molto incazzati, ma soprattutto poi verremo subito a vedere un tuo concerto quanto prima. Allora, grazie a tutti, grazie per averci seguito, grazie Valerio Iovine. Speriamo insomma di aver divertito, speriamo anche di aver dato dei contenuti validi per poter riflettere insomma su ciò che sta accadendo in questo momento di pandemia mondiale. Grazie a tutti su Radio Quarantena, ovviamente da domani alle 10 nuove programmazioni. Ciao Valerio. Ciao a tutti. Nuove che l'ombra rosura non possa uscire, chiuso lì da questi quattro muri ogni volta sbatte. pensieri. Radio Quarantella Napoli. Voci, resistenze, risonanze e dissonanze. Radio Quarantella è rassegna stampa, cronache dalla quarantena, non una di meno Napoli, incursioni musicali. Quante cose che sto pensando, ma l'unica cosa che mi rimane lindamente è che volessi morire a Coccoluno, volessi uscire.